TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il Natale di Versa, a oltre un mese dall'alluvione, l'arcivescovo di Gorizia Redaelli celebra la messa con gli sfollati, la chiesa è ancora inagibile. È vivo ma ancora in gravi condizioni dopo un lungo intervento chirurgico, l'uomo trascinato ieri pomeriggio dalla funivia di Piancavallo contro un pilone. Un giorno quasi come un altro al pronto soccorso di Udine, tra urgenze e disagi sociosanitari e il picco dell'influenza che colpisce anche gli operatori. Un po' di neve in montagna è caduta ieri sera in tempo per imbiancare i paesaggi per Natale, in quota fino a una trentina di centimetri sulle zone occidentali. 30 volontari e un centinaio di ospiti al pranzo di Natale organizzato dalla Caritas a Pordenone, quest'anno nella parrocchia di San Francesco. Natale a metà per i giocatori dell'Udinese dopo la battosta con la Fiorentina, ritiro anticipato già oggi in vista del match di giovedì contro la Lazio. È ormai passato più di un mese, buongiorno, scusate da Rita Micoli e buon Natale, ormai passato più di un mese dalla violenta alluvione che a metà novembre si è abbattuta sull'Isontino e sul Friuli orientale, provocando tra l'altro la morte di due persone a Brazzano di Cormons, Kvirin Kunert e Guerrina Scozzai, travolti dalla frana che si è abbattuta sulle loro abitazioni mentre il giovane cittadino tedesco cercava di mettere in salvo l'anziana vicina di casa. In quelle stesse ore, più a valle, Versa, frazione di Romans di Isonzo, finiva letteralmente sott'acqua per la tracimazione dei torrenti della zona. E oggi, proprio a Versa, la comunità si è raccolta in preghiera. La messa di Natale è stata officiata in un locale di fortuna. La chiesa è infatti ancora inagibile. A celebrare la funzione del Santo Natale con un centinaio di fedeli è stato l'arcivescovo di Gorizia, Carlo Roberto Redaelli. Un garage trasformato in luogo di preghiera. Fuori all'entrata sventola una bandiera del Friuli. In piazza i gazebo e i container della protezione civile. Sui muri ben visibile l'altezza raggiunta dall'acqua più di un mese fa. A stringersi in questo luogo la comunità diversa, a vivere un Natale diverso ma che dà forza e speranza. Vorrei tanto che questa celebrazione rafforzasse la presenza di Dio tra di voi. Vorrei fosse forte il senso di gratitudine per chi vi ha aiutato. Non scoraggiatevi. Vi auguro di diventare una comunità ancora più coesa. Queste le parole, augurio dell'arcivescovo di Gorizia Carlo Maria Redaelli nella sua omelia. Il messaggio sia davvero quello di sentirsi aiutati dalla presenza del Signore e anche dal fatto che c'è tanta gente, a cominciare dalla gente diversa, che ha saputo reagire e vorrà reagire, e penso che questa può essere un'occasione, come a volte capita anche nella vita personale, che i momenti di crisi sono momenti anche di crescita, e il messaggio che darò è proprio che sia una comunità ancora più coesa, ancora più capace di affrontare queste difficoltà, ma anche poi, tornato, diciamo, speso presto alla normalità, di vivere una dimensione davvero di comunità, una dimensione di fraternità e di accoglienza. Dentro e davanti al garage della signora Tiziana si sono riuniti in più di 100. Al termine della messa è seguito un rinfresco offerto dalle aziende agricole locali. Il sindaco di Romans, Michele Caligaris, ha insignito la comunità del premio speciale del comune. È un Natale che ci riconcilia con le cose concrete e le cose più importanti, che sono il senso di comunità e la voglia di queste persone, di tutti noi, di ricominciare, di continuare a lavorare perché si possa ridare nuova vita e vitalità a questo paese. Abbiamo ritenuto di assegnare il premio che annualmente diamo alle persone che si impegnano all'interno della nostra comunità, non una persona, ma a una comunità intera, appunto, quindi alla comunità diversa, perché ha dimostrato grande forza, grande coraggio e grande dignità nel momento più difficile che ha dovuto vivere. Versa, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia. E adesso la cronaca con il gravissimo incidente avvenuto ieri a Piancavallo, vittima un 32enne che lavora in una baita ristorante in quota e che stava scendendo con la seggiovia alla stazione di partenza dell'impianto. Una tragica fatalità ha fatto sì che rimanesse impigliato in una rete. L'uomo è stato così trascinato contro la base di cemento di un pilone dell'impianto di risalita. una fatalità, una serie di eventi sfortunati. È caduto dalla seggiovia così ieri pomeriggio, poco dopo l'una, Mattia Baronio, originario di Mortara, in provincia di Pavia, lavoratore 32enne della Baita Arneri, un rifugio in quota della località sciistica di Piancavallo. Era appena salito senza sci sulla seggiovia Tremoluno per tornare a valle, quando una colata di vento improvvisa ha sollevato la rete di protezione che protegge gli ultimi metri di percorso. La stessa si è impigliata contemporaneamente sia al poggia sci che al suo scarpone da montagna. Il ragazzo è stato così sobbalzato dalla seggiola, rimanendo appeso per la giacca. L'impianto si è immediatamente fermato, ma il blocco in questi casi non è istantaneo. Il lavoratore, invece di cadere nella rete, è stato trascinato per alcuni metri, non più di 5, ed è rimasto così nel vuoto per oltre un minuto, finché la giacca ha ceduto ed è caduto ad un'altezza di 8 metri, rimbalzando prima sul cavo che sostiene la rete, prima di precipitare proprio sulla base in cemento dell'ultimo pilone della seggiovia. Oggi ci sono oltre 20 centimetri di neve, ieri purtroppo non ce n'era per attutire l'impatto. Immediati soccorsi, l'uomo era cosciente, è stato recuperato e portato a valle con il toboga e portato poi in ambulanza per alcune centinaia di metri fino a dove si trovava l'elicottero, che non aveva potuto intervenire sul luogo dell'incidente a 1600 metri di quota a causa della nebbia e del vento. Trasportato all'ospedale di Udine, è stato ricoverato in gravissime condizioni, frattura alle gambe, al torace, al bacino e vari traumi interni. È stato operato nella notte, ma non è ancora fuori pericolo, si trova in terapia intensiva, intubato. Sul luogo, per le indagini condotte dal magistrato di turno della procura di Pordenone, Andrea Del Missier, i tecnici del Dipartimento Prevenzione Incidenti sul Lavoro dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale e i carabinieri, la rete incriminata e la seggiola su cui viaggiava sono stati posti sotto sequestro e l'impianto ad ora non è in funzione, ma l'ente regionale proprietario degli impianti, Promoturismo, conta di poterlo aprire già nel pomeriggio. Piancavallo, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nella festa più sentita dell'anno sono in tanti chiamati comunque a prestare il proprio servizio per la comunità, come forze dell'ordine, i vigili del fuoco impegnati proprio in queste ore con gli interventi per la forte bora, il personale sanitario di ospedali ed altre residenze. Siamo andati al pronto soccorso dell'ospedale di Udine, che opera come in qualsiasi altra giornata alle prese con il picco influenzale e altre emergenze. Se medici e infermieri non avessero in testa cappellini da Babbo Natale e cerchietti da elfo, sembrerebbe quasi un giorno qualsiasi. La sala d'attesa del pronto soccorso, praticamente vuota al mattino, si riempie col passare delle ore. Di solito a Natale si vedono più accessi al pomeriggio e alla sera, ci dicono i dottori. C'è anche una quota di pazienti che hanno problemi di tipo sociosanitario, al di là del bisogno medico, che non riescono a rapportarsi con quello che il territorio può offrire, indica il medico Federico Mecchia. In mattinata viene ricoverata un'anziana caduta dal letto e rimasta incastrata con il braccio tra le doghe. Un'altra lamenta difficoltà espressive e di memoria. Ci sono pazienti poi con dolori toracico-addominale e traumi minori. Arriva anche una frattura del femore. L'influenza corre e colpisce anche gli operatori sanitari. Per coprire un paio di infermieri in malattia, due colleghi dovranno fare turno da 12 ore oggi. Ma in corsia, in PS, ci sono comunque garantiti sempre 7 infermieri al mattino, 7 al pomeriggio e 2 di notte. Per noi tutti i giorni sono uguali, che sia festivo, prefestivo o feriale, ci mettiamo sempre il nostro impegno, ci dice l'infermiere Luigi Minopoli, da 11 anni in pronto soccorso. Ictus o infarti non hanno festivi. Rispetto all'anno passato, indica il direttore generale Caporale, venuto a fare gli auguri al personale in servizio, sono stati recuperati una ventina di minuti nei tempi d'attesa dei vari pronto soccorso dell'azienda sanitaria. Aiuta anche la recente apertura dell'ambulatorio diurno e notturno della Casa della Comunità. In pronto soccorso pediatrico la dottoressa Servidio visita un bambino che sta facendo l'aerosol. Attaccato al suo stetoscopio pende un piccolo Babbo Natale. Se entro qualche ora dall'osservazione breve intensiva i piccoli pazienti non sono dimessi, vengono ricoverati di sopra nell'area degenze pediatriche. Soprattutto febbre, tosse e infezioni respiratorie. I letti delle degenze sono quasi tutti occupati. In mattinata due dimissioni, ma subito rimpiazzate da due nuovi arrivi. In ostetricia facciamo appena in tempo a incrociare il ginecologo Gabriele Filippo, è stato chiamato in sala parto. Arriva da un cesareo di prima mattina, ma l'incontro più bello della giornata è con il primo nato di Natale, venuto al mondo alle 2:07 di notte. Si chiama David. Mamma Ifoma, di nazionalità nigeriana, ha voluto dare un nome biblico al terzo maschietto della famiglia. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora alla cronaca, un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre giocava a calcio con alcuni amici. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Pordenone. Il ragazzo stava giocando su un campetto di periferia quando, sembra dopo uno scontro fortuito di gioco contro un avversario, è stato colto da arresto cardiaco. Allertati da una chiamata al 112, i sanitari sono subito intervenuti. Il 15enne però è apparso subito essere essere in condizioni critiche, è stato intubato sul posto e sottoposto alle manovre di rianimazione prima del trasporto d'urgenza all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove però è spirato poco dopo. L'adolescente era tesserato da alcuni anni con le giovanili dell'associazione sportiva Torre, faceva parte della formazione Under 16. Parliamo ancora di meteo. In corso una mattina di nuovo impegnativa per i vigili del fuoco a causa della forte bora che da ieri spazza Trieste, l'Isontino e in modo meno intenso anche il Friuli orientale. Una decina di interventi questa mattina a Trieste, fanno sapere i vigili del fuoco, soprattutto per alberi pericolanti e rami caduti. Interventi per le chiamate della mattina in fase di smaltimento anche nell'Isontino, concentrati nell'area di Monfalcone, ma nelle scorse ore i pompieri sono intervenuti anche a Ronchi dei Legionari, Doberdò e Grado. Nella notte problemi dovuti alla caduta di rami in sede stradale anche nel Friuli orientale, in particolare nella zona di Faedis. Ed è Natale con la neve, non tantissima, su tutto l'arco montano del Friuli Venezia Giulia fino a Fondovalle. Neve caduta nella serata della vigilia, giusto in tempo per imbiancare i paesaggi per la giornata del Natale. La neve è stata un po' più abbondante a Forni di Sopra, una ventina di centimetri caduti, almeno 20 centimetri anche a Sappada, 10 centimetri di neve fresca a Tarvisio, più in quota sul Var Mosta, Forni di Sopra e nella zona del Siera Sappada i quantitativi di neve sono stati maggiori, si arriva a una trentina di centimetri, come sulla parte alta delle piste del Pian Cavallo, quantitativi inferiori sullo Zoncolan e a Sella Nevea. Diamo allora uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è da poco nuvoloso, ha coperto sulla regione, le temperature delle 11 a Trieste 6 gradi, vento da est nord-est, bora 61 km orari con raffiche che durante la notte hanno raggiunto i 102 km orari. A Udine 9 gradi, a Pordenone 8 gradi, a Gorizia 7. A Tolmezzo 4 gradi, sul Pian Cavallo 2 gradi, a Forni di Sopra 1 grado positivo, a Tarvisio meno 1 grado, a Sappada 2 gradi sotto zero. Sul Monte Zoncolan meno 6 gradi, sul Monte Lussari meno 7, sulla costa a Grado e a Lignano 8 gradi. Ora le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Al mattino sarà probabile nuvolosità variabile, in giornata miglioramento con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Soffierà bora moderata in pianura, sostenuta invece sulle zone orientali e forte sulla costa, con raffiche che saranno ancora intorno ai 100-110 km orari a Trieste. Sul Tarvisiano probabile persistenza di foschia e nubi basse a Fondovalle. Domani cielo sereno o poco nuvoloso, sul Tarvisiano e in Valcellina probabile presenza di foschie e nubi basse a Fondovalle, specie al mattino. Soffierà ancora bora da sostenuta forte al mattino sulla costa, poi in attenuazione. Oggi le messe solenni di Natale nelle città capoluogo del Friuli Venezia Giulia. A Trieste il vescovo Monsignor Trevisi ha presieduto la celebrazione nella cattedrale di San Giusto. Questo pomeriggio alle 16:30 i vespri nel monastero di San Cipriano a Prosecco. Il giorno in cui nasce Gesù, in cui la Chiesa invita ad adorare questo bimbo re degli angeli, il vescovo di Trieste, Enrico Trevisi, parla proprio di bambini. Dio non lo pensiamo come solo, ha detto, ma come padre che genera un figlio e invita ad un radicale cambio di cultura. Come possono i giovani oggi desiderare di avere figli se ciò che il mondo propone loro è esattamente il contrario? Un'autorealizzazione, un benessere individualistico che comporta il vedere i figli come antagonisti alla loro affermazione sociale e psicologica. Trevisi nella sua omelia si è rivolto anche alla politica, entrando concretamente nei bisogni delle famiglie, citando anche turni e orari che nessun asilo nido riesce ad osservare, e ha chiesto scelte forti e coraggiose. Manca una politica che dia una svolta epocale alle politiche familiari. e che renda più desiderabile il celerare. Ormai, lo sappiamo, non è più come una volta, è indispensabile il lavoro extrafamiliare di entrambi i genitori. Ma i salari bassi rendono le spese per un bambino una preoccupazione e impongono stili di vita che sono un vero andare controcorrente. Il vescovo nella cattedrale gremita ha poi impartito, per designazione della sede apostolica, a nome del pontefice, la benedizione con l'indulgenza plenaria. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo figlio ha inondato di luce. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. E più di 100 persone sono attese al pranzo organizzato dalla Caritas a Pordenone per un Natale che non lascia indietro i più poveri e soli, quest'anno organizzato nella parrocchia di San Francesco, una trentina, i volontari che stanno dando una mano. I primi ospiti hanno cominciato ad arrivare già alle 11. L'oratorio della parrocchia di San Francesco a Pordenone è pronto ad ospitare il pranzo comunitario e il pomeriggio di animazione organizzati dalla Caritas diocesana per un Natale che non lasci indietro solitudini e marginalità. Più di 100 le persone attese. Il direttore della Caritas diocesana, Andrea Baracchino. Sono appunto preparativi che già praticamente da un mese sono in piedi per garantire una tradizione. Questo giro in un luogo nuovo, abbiamo voluto aprirci anche alle parrocchie che già fanno tanto per quello che è la solidarietà, anche a volte in maniera nascosta. E adesso abbiamo lanciato poi, come ogni anno, insomma, l'iniziativa, e sono 110 persone che verranno qui ospiti, più una trentina di volontari, e tutti insieme passeremo il Natale, insomma, lo spirito è questo. Per la Caritas parrocchiale, Daniele Bravo. Questa parrocchia e questo quartiere di Pordenone ha sempre avuto una situazione abbastanza importante di disagio e di povertà, collegata al fatto che qui ci sono diversi insediamenti popolari, e quindi la nostra, come Caritas parrocchiale, è una delle più frequentate e partecipate. Una trentina i volontari e le volontarie che hanno scelto di contribuire con il loro aiuto, come Antonella. È la prima volta, la prima esperienza, è emozionante. E cosa l'ha spinta qui? Voler condividere una festa insieme a persone che magari si sentono sole. Visto che ho tanto tempo libero adesso, mi piace la condivisione, poter gioire insieme ad altre persone di queste cose qui. Bello, è emozionante, forse mi arricchisco più io che loro. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E adesso parliamo del calcio. Di Natale, un Udinese travolta dalla disfatta con la Fiorentina e pare secondo in discrezioni, con un clima più che teso tra giocatori in spogliatoio, tifosi delusi, società che corre ai ripari con un ritiro che scatta già oggi in vista della partita di dopodomani, sabato 27 dicembre, con la Lazio. Un Natale da festeggiare a metà per i giocatori dell'Udinese a causa della brutta sconfitta rimediata domenica contro la Fiorentina, partita finita 5-1 per i Viola. Il ritiro è stato anticipato già da stasera. Una decisione presa da una società allarmata. I bianconeri in campo sono apparsi distratti e disuniti e preoccupati per la partita contro la Lazio in programma il 27 a Udine. È fondamentale dimostrare un maggior attaccamento e un rispetto incondizionato per la maglia, ha ricordato la società in un comunicato. Richiediamo, già a partire dal prossimo incontro, non solo un risultato positivo, ma un riscatto immediato e tangibile. Ad alimentare la tensione anche la voce girata subito dopo l'incontro di una lite furibonda negli spogliatoi tra l'attaccante Zaniolo e il portiere Okoye, autore al nono minuto di una violenta uscita fuori area contro Chine, che gli è costata il cartellino rosso immediato, lasciando in 10 la squadra per quasi tutta la partita. Per questo motivo Zaniolo sarebbe stato sostituito, suscitando la sorpresa dei tifosi, cui ha risposto il tecnico Rugnaic dicendo: "Ho una mia ragione". Una ricostruzione che però sarebbe falsa, almeno stando a quanto dichiarato sui giornali dal group technical director Gianluca Nani. Smentisce il litigio tra i giocatori e parla solo di delusione. Il tecnico Kostas Rugnaic non sarebbe quindi chiamato a rimettere ordine in uno spogliatoio diviso, ma a preparare con attenzione una partita importante. Match sentito anche in casa Lazio. La squadra si è allenata questa mattina e continuerà anche domani. Per Maurizio Sarri sarà però necessario fare i conti con l'emergenza, soprattutto a centrocampo, campo, dove tra infortuni e giocatori impegnati nei match delle rispettive nazionali i numeri sono contati. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Bruno Montevecchi e Caterina Cabrelli. In segreteria hanno collaborato Isabella Parutto e Cristina Polselli. Da Rita Micoli e da tutta la redazione della TGR del Friuli Venezia Giulia, ancora l'augurio di un sereno Santo Natale. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.